scintilla dell'amore nei tuoi occhi quando mi hai sputato in faccia. Mi mancherà sicuramente la tua voce che mi dice: psicopatico! Amore mio, lo so che penserai a quelle notti al telefono che non prenderai.